Piano,

Lasciai ai patri, ai parenti, e qua me venni, e qui la notte il giorno passo girando a quei balconi intorno. A quei balconi? Un medico, aspetta, siete ben fortunato. Sui maccheroni il cacio è cascato. Come? Certo, là dentro io sono barbier, parrucchiere, chirurgo, botanico, speziale, veterinario, il passeggero di casa. Oh, che sorte! Basta! La ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla. Oh, che consolazione! Certo, zitto, cos'è? Sopra il balcone. Signor, forse stesso dovere. Una canzonetta così alla buona, il tutto spiegate le signore. Una canzone? Certo, ecco la chitarra, presto la mia. Ma io... Oh, che pazienza! E ben proviamo! Se il mio nome so per voi provare, dal mio labbro il mio nome ascolto. Catch comincia a diventar sì, all'idea di quel metallo montano la mia pelle qui comincia. Bella, sì, sì, all'idea di quel metallo montano la mia pelle qui comincia. Che dal vino casca già il tuo numero 15, cappello bianco, 4 gradini, facciata bianca, 5 parrucche, e 9 fina, solo un cappello, fumata fina, mostra in azzurro, alla moderna, mette l'insegna, un volo bello, e senza fallo, ti troverà, parrucche, fina, Andate! E il diavolo è per il padre! tu me la pagherai. Don Basilio giunge che a tempo. Io voglio per forza o per amore entro domani sposar la mia Rosina. Avete inteso? E voi dite benissimo. E appunto io qui veniva ad avvisarvi. Il conte d'Albadina. Chi? L'incognito amante della Rosina. Appunto quello. Ma diavolo! Qui ci vuole rimedio. Certo. Alla sordina. Sarebbe a dir. Così, con buona grazia, bisogna principiare a inventare qualche favola che al pubblico lo metta in malavista e comparir la faccia. Un'anima perduta, io mi servirò. Da 4 giorni credete a me, Basilio ve lo giura, noi lo farem sloggiar da queste mura. E voi credete? Certo, è il mio sistema, e non sbaglio. E vorreste, ma... Una calunnia? Dunque, la calunnia cos'è? Voi non sapete. No, davvero? No, uditemi e tacete. Yes. che insieme il contratto di nozze ora spendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, metterla in salvo sarà pensiero mio. Venga a parlare, al resto son qua io. Ma bravi, ma bevole, conteso tutto, e prima il condannare, proprio babbuino, ma sposa e figlia, fuggi il bottino. Orchestrando la giunti, rubio di parlare la legata, ecco la punto. E vedi, si dofino. Ma gran cosa, signorina. Si dofino. Mangerei dei confetti. Come sai capire? Sarebbe dire che non vuole tu voi a stabilito, essere detto domani, vostro marito. Oh, ve lo giuro, se ti ricordate quel mezzo di musica, la vento non sei serrato. Thank you. divandate, qui verrai, divandate, divandate, Oh, Quando accorde la di bene. Queste ragazze non la voglio capire. Dio, signor mio, e Oh! per tu e poi le stelle Gioia, gioia, pace, basta, basta, basta. conversazione alla ragazza, volevo farmene un merito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe... Che cosa? Mi dirò, se io potessi parlare alla ragazza, ma io crederla ad avervi grazia, che paretta che me lo diede il conte in una cravatta, prova significante che il conte di Rosina si fa gioco, e perciò... Piano un poco. Una calunnia? Oh, bravo, degno e vero scolar di Don Basilio! Io saprò come merita ricompensarsi quel suggerimento. Vuoi chiamarla ragazza? Ah, voi che tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi, non dubitate! L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come far senza un carro in piedo? Mi toccava dar via come un fagiolo. Il mio disegno a lei ora paleserò, se la consente io son felice appieno. Eccola, hai il cuore senza bazzarmi in seno. Venite, signorina. Don Alonso è qui, vedete, vuol vi dare lezione. No! Che cosa sta? Sì, crocchio il piede! Fanciulla, sedetevi vicin, bella fanciulla, se non vi spiace un poco di lezione di Don Basilio invece vi darò. Oh, con il gran piacere la prenderò. Che vuol cantare? Non canta, se la brada, il rombo dell'inutile preclusione. La brada, incominciamo. Yeah. Bravo, signor barbiere! Ma bravo, che niente affatto! Scusi, soffievole! E ben, guidone, che vieni a fare? Bella, che incappargli la barba! Oggi ti toccherà! Oggi? Non voglio! Oggi non buona! Di mani non potrò io! Perché? Perché ho da fare l'ufficiale del nuovo regimento, barba e testa! Alla Marchesa Andronica, io do per un finto in mano al continuo commesso a campanile. Urgante all'avvocato Bernardone che ieri s'ammalò di indigestione. E poi, che serve? Domani non posso nessuno parole. Oggi non può far barba, no? No, cospetto! Guardate che avventori, vengo stamane in casa dell'inferno. Ritorno dopo pranzo, oggi non voglio, ma che... con qualche barbier da contadini, chiamate pure un altro. Io me ne vado! E serve al modo suo, vedi che fantasia! Va in camera a tirar la biancheria, no? Vado io stesso! Ma se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo! Non so quella chiave, che altre cose ce lo sia! Si c'è una fila più nuova! Son pur buono a lasciar qua quel diavolo di barbiere. Animo, da tu stesso! Passato il corridor, sopra l'armadio il tutto troverai. Bada, non toccar nulla. Non son matto, vado e torno. Colpo è fatto. E quel briconte al... E quel briconte al conte ho portato dai pimienti di rosina. Mi sembrano i grandi anni di Masfera. E a me non me la vita. Disgraziato me. Morte briconte, me lo diceva il cuore. Quel vivero gran uomo, or che sia un sogno, ditemi o cara, il vostro al mio destino unire siete contenta. Franchezza, io di toro, che tu, padre, sei piatti, otto bicchieri, una perfina, vedete che gran cosa, ad una chiave. Sei levato a capo per fortuna per quel maledettissimo corridoio così oscuro. Spizzato mi sarei la testa al muro, pieno di salsa al buio. E poi... Oh, non più! Un serviato, giudizio a noi! Don Basilio! Cosa metto? Marito! Proprio cattivo, e l'affare buono, zavata, zavata, zavata, zavata, resta. Andate a letto. Ma che tutti, ma che tutti siano d'accordo. Verso letto, verso letto, verso letto, verso letto, verso letto, verso letto. Bravissimi!

il barbiere congiurano contro voi, non vi fidate. Nelle braccia del conte Almaviva vi vogliono condurre. Dio può chiamare la forza. Via, chiuditi presto, io vado via. Thank you. senza fiato, senza fiato. Ora muoio nel contento, nel contento. Guarda, guarda, guarda, guarda il mio talento. Guarda, guarda il mio talento. Come si fa? Non avete mai la scala? E ben la scala non va più. Che dici? Mi fai la Ecco, chi siamo, signor mio, che si fa? Reagina, coraggio! Voi qua! Non guardalo, non guardalo! Don Basilio, che coraggio! Va bene, il nostro notato, chiede gravemente! Bene, signor notato! Come vado in mia casa a figurare questa sera? Il condonato di notte fra il conte alla riva di nipote. Gli sposi, eccoli qua! Avete indosso la scrittura? Benissimo! Ma piano, Don Bartolo, dov'è? Ehi, Don Basilio, quest'anello è per voi! Ma io? Per voi, vi sono ancora due palle del cartello se componete! Volevo, prendo l'anello, gira! Eccoci qua, sono testimoni, figano! Don Basilio, essi la mia sposa! Evviva! Oh mio contento! Sospira la mia felicità! Evviva! Tutti! Eccoli qua, le buone signore! Signore, sono ladri! Arrestate! Arrestate! Signore, il suo nome! Il mio nome è quel d'un buon donore! Il conte d'alma viva, io sono! Conte, che mai sento, ma costa. Precauzione!